Con Paola Greci, curatrice del progetto Talking Teens, Le statue parlano, che prenderà avvio sabato 18 maggio 2019 alla Casa della Musica a Parma. Paola, ben trovata. Ciao Federico. Ci racconti? Sì, volentieri, sono molto felice di raccontarvi di Talking Teens e Le statue parlano, che è un progetto che anima gli abitanti silenziosi delle piazze cittadine di Parma, che sono le statue. E quindi dal 18 di maggio chi entrerà nelle piazze di Parma entrerà in una sorta di dialogo, e cito un po' Calvino, dalle sue città invisibili, perché le statue in effetti parlano sui cellulari dei passanti e anche un pochino dialogano tra loro, perché abbiamo delle statue che anche invitano ad andare a trovare le altre, come un po' se scendessero dal loro piedistallo e ci conducessero a spasso per la città nei loro luoghi. Praticamente è un percorso tra le piazze e i parchi cittadini, dove queste 16 statue parlano. Funziona così: ci si reca presso la statua e lì si trova un totem che abbiamo disegnato apposta perché sia accessibile a chi ha disabilità motorie. Poi spenderò due parole sull'accessibilità, a cui teniamo molto. Comunque, dicevo, ci si reca presso le statue e sul totem ci sono, diciamo, le istruzioni con un numero di telefono proprio della statua dedicato, e quindi è una telefonata tradizionale che si può fare alla statua. Poi però c'è anche un QR code barra un codice NFC per i telefoni Android, che ti regalano un'esperienza un po' più divertente rispetto alla telefonata tradizionale, perché ricevi proprio uno squillo sul cellulare, rispondi e c'è Giuseppe Verdi che canticchia. La donna immobile si ferma e poi ti inizia a raccontare, per esempio. E poi c'è l'app. E l'app è diciamo, la soluzione più sofisticata: non hai più bisogno di totem né di niente, perché l'app ti guida da una statua all'altra con la mappa, ti geolocalizza e poi ti manda in automatico la telefonata quando arrivi in prossimità delle statue. E quindi questo è come funziona il percorso, con una tecnologia abbastanza sofisticata, che abbiamo voluto articolare proprio perché per dare la possibilità un po' a tutti di ascoltare le telefonate, sia le persone magari di una certa età che utilizzano una telefonata tradizionale, che i giovani che invece preferiscono avere una fruibilità, sì, una funzione più tecnologica delle informazioni. Però diciamo che il cuore del progetto in realtà sono i giovani, perché noi abbiamo voluto lavorare con gli adolescenti, con i teenager, così con l'obiettivo di avvicinarli alla cultura. E quindi abbiamo lavorato con 300 studenti di 15 scuole superiori di Parma che hanno adottato le statue, quindi ogni statua ha una classe, e hanno scritto le telefonate, quindi hanno accettato questa sfida non semplice di scrittura di un testo che poi sarebbe diventato un testo da recitare da attori professionisti. Quindi abbiamo anche una parte poi performativa, e abbiamo degli attori, tantissimi attori in realtà, perché ne abbiamo più di 20, che hanno dato la voce alle nostre statue. È stata anche una molto divertente e molto interessante la ricerca delle voci, perché appunto dovevamo renderle vive queste telefonate, questi contenuti, che comunque sono già tutti espressi in prima persona, per cui c'è chi, i ragazzi hanno immaginato qualcuno, c'è una statua che parla ancora prima, il giorno in cui dell'inaugurazione, in cui avviene, prima di essere svelata, un giorno di pioggia, e lui sente le voci di tutte le persone intorno che stanno aspettando che la statua si sveli. E quindi anche appunto le voci sono state importantissime, e siamo molto soddisfatti della scelta degli attori che secondo noi incarnano pienamente, danno vita alle statue. E abbiamo attori come Franco Nero, Lino Guanciale, che devo ringraziare in particolare perché ha fatto anche il video per il nostro crowdfunding, perché abbiamo voluto coinvolgere anche la città. Quindi è anche un progetto corale, la città ha risposto molto bene con questa raccolta di fondi dal basso, e abbiamo fatto anche un concorso di scrittura, perché una statua invece non è la classe che l'ha scritta, la telefonata, ma è la vincitrice di questo concorso. Una parola sull'accessibilità, perché ci tenevamo molto che il progetto fosse accessibile a tutti e in particolare a chi non poteva sentire, perché essendo una telefonata, diciamo, appunto, era chiaro da subito che chi è sordo non avrebbe potuto ascoltare. E quindi abbiamo messo tra le nostre lingue, dove ci sono le nuove tecnologie, naturalmente anche la lingua dei segni italiana, per cui si può scegliere un video anziché ascoltare la telefonata nelle altre lingue. E poi c'è anche la targa anche in braille, e quindi abbiamo cercato di dare, insomma, la massima accessibilità al progetto. Diciamo che siamo molto soddisfatti, e quindi questa avventura parte il 18 maggio e siamo molto euforici e contenti. E in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per ulteriori dettagli? Sì, certo, potete trovarci sul sito www.talkingteens.it. Praticamente Talking Teens significa teenager che parlano, teens talking che parlano, perché proprio perché da loro siamo partiti e loro sono loro che fanno parlare le statue alla fine. Quindi www.talkingteens.it, e poi anche i social Talking Teens e Talking Teens Pharma. Seguiteci e venite a trovarci a Parma. Allora, ricordiamo l'appuntamento a partire da sabato 18 maggio 2019 con l'inaugurazione di Talking Teens, le statue parlano, alla Casa della Musica a Parma. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Paola Greci. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, e se mi permetti, sì. Federico, scusami se posso aggiungere una cosa. Certo. Perché mi è venuto in mente che ci tenevo a ringraziare, oltre a tutti gli attori, anche in particolare Elisabetta Bossi, che è stata la primissima che all'inizio, quando il progetto era ancora proprio un'idea, è salita generosamente a bordo di questa avventura, e quindi è stata di grande incoraggiamento. Bene. Tutto qui. Ok. A presto, allora. Ok, grazie a te.